Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Milano si riappropria del ruolo di capitale morale del paese e si riappropria in un momento difficilissimo, in un momento nel quale purtroppo la capitale reale non sta dimostrando di avere forse quegli anticorpi morali di cui ha bisogno e che tutti ovviamente ci auguriamo che in tempi brevissimi recupererà. Grazie. Questo detto oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il capo dell'anticorruzione Cantone, a proposito di questo binomio Milano-Roma, dice Roma quello che sta accadendo, insomma, non ha, dimostra di non avere gli anticorpi, mentre Milano è di nuovo diventata la capitale morale, qui anche la rivalità, insomma, tra le due città si è un po' scatenata, polemiche, eccetera. Ne parleremo, perché parleremo soprattutto in realtà di Roma con la vicenda di Marino, che diciamolo è veramente più avvincente di una qualsiasi serie TV, perché oggi c'è un'altra puntata, ci dovrebbe essere ancora in corso tra l'altro l'incontro a sorpresa del sindaco dimissionario, che non si sa se dimetterà oppure se ritirerà questa dimissione, Ignazio Marino, con il presidente del PD Matteo Orfini a Roma. Non vedo ancora agenzie che diano esito di questo incontro, quindi poi vi aggiornerò man mano. Ne parleremo però del caso Marino con il capogruppo PD in consiglio comunale a Roma, Panecaldo. Poi c'è un altro argomento che mi piacerà affrontare con voi e naturalmente con l'ospite che ci sarà, che è quello di un nuovo, non allarme in questo caso, dopo l'allarme dell'OMS sulle carni rosse, soprattutto quelle lavorate, adesso sembra che ci sia nel mirino dell'OMS il caffè e i primi risultati si avranno nel 2016 delle analisi, degli studi sul caffè. Quindi a questo punto uno può dire che cosa dobbiamo mangiare? Non ci sono delle certezze su nulla, quanta confusione avete in testa, vi chiedo, quali sono i vostri dubbi maggiori sui cibi? Potete scriverlo sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure mandare dei sms al 349-238-6666. Ci sarà il professor Calabrese, che è nutrizionista ed esperto di sicurezza alimentare, qui più tardi a Effetto Notte. Quindi se avete dei dubbi su degli alimenti in particolare, volete fare le vostre affermazioni su questi allarmi, ci sono come sempre pagina Facebook di Effetto Notte o gli sms al 349-238-6666. Insomma, un sacco di argomenti anche questa sera, perché parleremo anche del fatto che l'Europarlamento ha dato il via libera a portare sulle tavole degli europei insetti, vermi, e alghe e anche dei nanomateriali. Parleremo anche di questo, un sacco di roba stasera, intanto vi riassumo le notizie principali. Crisi e ripresa, sale la fiducia di imprese e consumatori, mai così alta da 13 anni, Renzi commenta, cambia il clima, l'Italia ci crede, per Mattarella la crisi è alle spalle. Omicidio stradale, sì della Camera, il reato prevede fino a 18 anni di carcere, pugno duro per chi fugge e revoca della patente, ora il testo torna al Senato. La crisi in Campidoglio, resta il rebus delle dimissioni di Marino, incontro del sindaco con Matteo Orfini e il capo dell'anticorruzione, in mattinata attacca Milano capitale morale, Roma senza anticorpi, ma poi precisa, le mie parole non erano critiche ma pungolo. Medio Oriente, il sottosegretario americano Kerry sottolinea che l'unica soluzione sono due stati, uno israeliano e uno palestinese. Alimentazione, dopo il clamore suscitato con l'allarme sulle carni rosse, nel mirino dell'OMS ora c'è il caffè e intanto l'Europarlamento dà il via libera ad alghe e insetti nei piatti europei. Scandalo Volkswagen, il Dieselgate pesa sui conti del gruppo, primo rosso in 15 anni. Fecondazione eterologa, il TAR boccia la regione Lombardia, illegittimo far pagare i pazienti, ma la regione annuncia ricorso al Tribunale di Stato. Polemiche sulla RAI, 1000 euro al minuto all'ex ministro greco Varoufakis da Fazio, centrodestra all'attacco. Calcio, in campo la Serie A, esonerato l'allenatore del Bologna degli Orossi, al suo posto Donadoni. Partiamo quindi dalla fiducia, cioè quella di consumatori e imprese, che secondo l'Istat è cresciuta come non succedeva da 13 anni. E per Mattarella, Presidente della Repubblica, la crisi è alle spalle, Renzi commenta, ora l'Italia ci crede. Stiamo registrando per la prima volta dopo molti anni un cambiamento di clima profondo. L'Istat ci dice che la fiducia dei consumatori è al massimo dal 2002, la fiducia delle imprese è al massimo dal 2007. Siamo tornati ai livelli di pre-crisi, l'Italia ci crede. Il governo è qui con una missione di sistema per dire che non vi lascia soli a cercare singole occasioni di business. Noi ci siamo e ci siamo come paese. E ci siamo convinti che la pagina migliore dell'Italia debba ancora venire, che questi dati siano soltanto l'antipasto di quello che potrà avvenire nei prossimi mesi. Potrebbe venirmi una battuta tipo l'Italia ci crede, dice Renzi, ci crede o ci fa Alberto Rioli, nel senso che certamente non è ancora uscita dalla crisi l'Italia, però sì, ci sono dei segnali positivi, no? Alberto, vicedore del Sole 24 Ore, ciao. Ciao e buonasera a tutti. Sì, naturalmente sono segnali positivi importanti perché il dato che si riferisce a ottobre duplica quello di settembre, quindi comincia a essere una tendenza vera ed è una tendenza che riporta indicatori di fiducia come non si vedevano dal 2007, quindi da prima della crisi. Tutte rose e fiori non del tutto, perché se è molto importante l'indicatore che fa capire che gli impianti cominciano a girare un po' di più, si è alzato questo è il dato di che riguarda l'andamento degli impianti, è molto forte l'attesa di fiducia anche sul futuro da parte dei commercianti, del mondo dei servizi, del commercio, che vedono un miglioramento degli acquisti da parte dei consumatori al dettaglio. Però c'è sempre il dato tremendo dell'edilizia, che è l'unico comparto all'interno del manifatturiero praticamente in controtendenza, che anche sul futuro vede nero, cioè dà conto di un indicatore sugli andamenti della domanda e del futuro in generale negativo, per non parlare poi delle aspettative sull'occupazione, cioè viene chiesto alle imprese se si aspettano di assumere o meno delle persone, qui l'indicatore addirittura è andato in negativo, quindi vuol dire che uno dei settori cruciali che danno robustezza alla ripresa dell'economia del nostro paese è ancora profondamente in crisi, e finché non riparte il mondo dell'edilizia, che non vuol dire solo mattoni, tegole, cemento e quant'altro, vuol dire tutto l'indotto, rubinetti, arredamento, vuol dire piastrelle, vuol dire elettronica, tappezzerie, tutto quello che gira intorno al mobile, insomma molto del made in Italy, evidentemente la ripresa non è davvero quella che tutti vorremmo. Senti Alberto, a proposito di ripresa e di canone, no? Legge di stabilità, canone, quanto ne abbiamo parlato di questo canone che sarà pagato Rai in bolletta elettrica, c'è questa polemica, lo sai, su quanto è stato pagato l'ex ministro greco Varoufakis da Fazio, c'è il centrodestra sul piede di guerra, sarebbe stato pagato 24.000 euro in quei 25 minuti che è stato lì, mezz'ora, quindi 1.000 euro al minuto. Allora dal centrodestra dicono, ho visto Carfagna che diceva ecco dove finisce il canone Rai, adesso vedo proprio ora un'agenzia in questo momento, una nota della RAI, che dice che l'ex politico greco è stato contattato dalla società produttrice del programma Endemol, un programma di Fazio, che ha la gestione diretta economica degli ospiti della trasmissione e che ha ritenuto evidentemente congruo il compenso richiesto dall'economista. Infatti è questo l'elemento da chiarire, per fortuna l'hanno chiarito, potevano anche farlo prima che avrebbero risparmiato un po' più di polemiche, perché il programma di Fazio è un programma gestito dalla Endemol sulla base di un appalto RAI, e quello ha un suo budget e una sua entrata particolare della pubblicità che anzi è in surplus, quindi probabilmente loro hanno un tariffario compatibile con le entrate pubblicitarie che gli derivano dagli spot, quindi non necessariamente è un problema di canone degli italiani, certo è un problema di costume anche di certi politici, diciamo la verità. Sposterei il tema, al di là della sacrosanta polemica su come va gestito il canone, questo va benissimo perché chiaramente andrà gestito al meglio per fare della RAI un vero servizio pubblico sempre più efficiente e quant'altro. Io però mi permetto di dire che mi colpisce molto che il ministro sedicente comunista che voleva fare della Grecia la Cuba d'Europa usa praticamente uno degli strumenti più biecamente capitalistici come quello di un'agenzia di relazioni pubbliche londinese, la London Speaker Bureau, che è quella che usa anche Barroso, che usa l'ex presidente della NATO, l'ex presidente della Bundesbank, cioè il mondo del capitale e del capitalismo che questo ministro ha tentato di combattere nelle parole e nei comportamenti. Insomma, mi fa un po' ridere, francamente. Varoufakis ha pagato lo scotto, come dire, di un eccesso di narcisismo alle riunioni europee, per cui non voleva comprendere i linguaggi e seguire le logiche di quelle riunioni, e adesso con lo stesso narcisismo va in giro e si fa a pavoneggiarsi un fallimento sostanzialmente. Grazie Alberto Rioli, ciao. Grazie Alberto. Ciao. E sempre restando sulle questioni economico-finanziarie, tassi sotto zero all'asta dei BOT, ennesimo paradosso della politica monetaria della Banca Centrale Europea. Sono finiti i tempi dei BOT con super tassi di interesse, quelli che hanno fatto la fortuna di intere generazioni di italiani. Il Ministero del Tesoro, per la prima volta nella storia, ha infatti emesso un titolo di Stato semestrale con un rendimento sotto zero. Questo significa che gli investitori prestano soldi all'Italia e tra 6 mesi ne riceveranno indietro un po' meno. Questo è l'ennesimo paradosso della politica monetaria che la BCE ha avviato per simulare la ripresa dell'economia e dell'inflazione, il cosiddetto quantitative easing. Dato che la BCE sta stampando moneta al ritmo di 60 miliardi al mese e ha tagliato i tassi dei depositi che le banche hanno presso la stessa BCE a meno 0,20%, e dato che Mario Draghi ha annunciato che a dicembre farà ancora di più, gli investitori si trovano quasi costretti a comprare bot con rendimenti sotto zero. La liquidità in Europa è infatti così tanta e posti dove metterla così pochi, che anche i bot italiani che rendono meno 0,055 suonano appetibili. Oltre al paradosso di questa situazione è evidente anche il cortocircuito. La BCE sta stampando denaro con l'obiettivo di far ripartire crescita economica e inflazione, con l'obiettivo cioè che le banche non investano i soldi che le stampa in bot, ma che li prestino alle imprese e alle famiglie. Purtroppo questo sta avvenendo ancora troppo lentamente. È evidente dunque che la politica monetaria da sola non può risolvere i problemi dell'Europa, serve di più e il compito è dei governi. Moria Longo, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso parliamo di omicidio stradale, perché c'è stato il sì dell'Aula della Camera al disegno di legge che introduce appunto questo reato di omicidio stradale. Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari, 101 astenuti, essendo stato modificato a Montecitorio, però adesso deve tornare al Senato. Contro hanno votato SEL, mentre Forza Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti, e adesso il reato di omicidio stradale prevede appunto, ora che passerà anche al Senato, fino a 18 anni di carcere, pugno duro per chi fugge e revoca del la patente. E siamo alla crisi in Campidoglio, resta questo rebus delle dimissioni di Marino. Nel tardo pomeriggio, a sorpresa, vi dicevo, è iniziato questo incontro col presidente del PD Matteo Orfini. Marino si apprende sarebbe orientato a ritirare le dimissioni, però ancora neanche oggi nessuna notizia certa su questo argomento. Poi vi dicevo, ne parleremo col capogruppo del PD in Consiglio Comunale di Roma Panecaldo. E nell'ennesima giornata di tira e molla del sindaco Ignazio Marino a Milano, durante la cerimonia di consegna del sigillo della città, il presidente dell'antico corruzione Cantone non ha risparmiato le critiche sulla situazione della capitale. Milano si riappropria del ruolo di capitale morale del paese e si riappropria in un momento difficilissimo, in un momento nel quale purtroppo la capitale reale non sta dimostrando di avere forse quegli anticorpi morali di cui ha bisogno e che tutti ovviamente ci auguriamo che in tempi brevissimi recupereremo. Poi in serata Cantone è ritornato un po' su queste dichiarazioni nel tentativo di smorzare, ha detto il mio non erano delle critiche a Roma, era soltanto un pungolo, insomma, cercare di imitare il modello vincente di Expo di Milano. Alimentazione e polemiche, dopo il clamore suscitato con l'allarme delle carni rosse nel mirino dell'OMS, adesso c'è il caffè, vi dicevo. Intanto l'Europarlamento dà il via libera alle alghe e gli insetti nei piatti europei. Poi affronteremo molto diffusamente questo argomento col professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, esperto di sicurezza alimentare. Voi potete continuare a mandare le vostre opinioni, le vostre riflessioni, le vostre perplessità su questi allarmi e sull'alimentazione in genere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al 349-238-6666. Intanto passiamo allo scandalo Volkswagen. L'Europa, prima regione al mondo, dice sì ai test antinquinamento su strada, ma a partire dal 2019 con soglie di tolleranza più alte rispetto a quanto proposto. Alla fine l'accordo è arrivato, ma decisamente a ribasso rispetto a quanto proposto da Bruxelles. I nuovi test sulle emissioni in futuro verranno fatti su strada e non solo in laboratorio, ma a partire dal 2019, e ci saranno soglie di tolleranza più alte. E dire che prima del voto la commissaria europea al mercato interno si era appellata al buon senso. Dobbiamo avere questo tipo di test il più presto possibile, aveva detto mentre il comitato tecnico autoveicoli stava votando. Il sì dei 28 alla fine c'è stato, ma a metà, e proprio mentre arrivava una ricerca dell'Università di Harvard. L'eccesso di emissioni delle auto Volkswagen fuori norma negli Stati Uniti contribuirà alla morte di 60 persone e spese per 450 milioni di dollari. Per ora la casa tedesca ha accantonato 6,7 miliardi per il richiamo delle 11 milioni di auto coinvolte nello scandalo. Il risultato è stato un trimestre chiuso in rosso dopo 15 anni. Livia Zancanera, Radio 24, Sole 24 Ore. Spostiamoci sulle notizie dall'estero, Medio Oriente, con le violenze che non si fermano, e oggi il segretario di Stato americano Kerry ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a fare quello che possono per aiutare la pace in Medio Oriente, sottolineando che l'unica soluzione per Israele, l'unica opzione è quella di una soluzione a due stati, cioè uno israeliano e uno palestinese, come si dice da anni. E negli Stati Uniti è stato licenziato l'agente che ha afferrato una studentessa nera per il collo trascinandola a terra nella Spring Valley High School di Columbia, South Carolina. Il tutto era stato ripreso in un video che ha fatto il giro del mondo. Lui è stato licenziato. Africa, l'Unione Africana ha accusato il governo e le forze ribelli in Sud Sudan di aver commesso crimini raccapriccianti, uccisioni sommarie, torture, mutilazioni, stupri e persino episodi di cannibalismo forzato. Lo scrive oggi la BBC. Di nuovo in Italia, la Giunta regionale lombarda ha annunciato che farà ricorso al Tribunale di Stato contro la sentenza del TAR che sull'eterologa ha bocciato la regione Lombardia come illegittima la decisione di addebitare il costo delle prestazioni agli assistiti, unica cosa che succede soltanto appunto in Lombardia. C'è anche una notizia di maltempo, una situazione critica in Toscana dove è stato diramato il codice arancione fino alle 13 di domani, è allagato un sottopasso alla stazione di Pistoia con conseguente ritardo della circolazione dei treni, sospesa la linea Campiglia Marittimo Piombino, chiuse anche alcune strade. Per il calcio c'è in campo la Serie A e ci racconta Giovanni Capuano come sta andando questa decima giornata. Giovanni? Eccomi, ci sono in campo 8 partite, ci stiamo divertendo questa sera. Allora, intanto c'è la Roma che ha fatto in fretta, 2 gol nei primi 9 minuti, 2-0, gol di Pjanic e Maicon. Roma che in questo momento è in testa da sola alla classifica con 23 punti, dietro però si stanno muovendo, perché è vero che il Napoli è ancora fermo sullo 0-0 con il Palermo, ma la Fiorentina è in vantaggio Verona 1-0, gol, anzi autogol di Marquez proprio un paio di minuti fa, e sta vincendo anche la Lazio 1-0 in trasferta, gol di Biglia al 16esimo, un calcio di punizione meraviglioso, così come meraviglioso su punizione il gol importantissimo del Sassuolo 1-0 di Sansone. Sassuolo che sta vincendo contro la Juventus, che dunque attraversa un momento difficile, anche per il Milan contestato dai tifosi, fermo sullo 0-0 con il Chievo, 0-0 anche per Frosinone Carpi, che è il derby tra le due neopromosse, le due provinciali per eccellenza del nostro campionato, mentre l'altra partita, l'ottava della serata, è Torino-Genoa, risultato 1-1. Il Genoa si era portato in vantaggio al 26esimo con l'Axalt, poi dopo un minuto e mezzo è arrivato il pareggio di Maxi Lopez. Grazie Giovanni Capuano, ci aggiorniamo poi dopo, e adesso prima di lasciarci, prima brevemente degli aggiornamenti della viabilità, poi entreremo nel cuore del primo argomento. Leggo alcuni messaggi tra la pagina Facebook e gli sms a 349-238-6666 su questi dubbi, perplessità sul tema dell'alimentazione, in particolare dopo questi allarmi dell'OMS. Elena scrive: la vita si è allungata sino a 90 anni, diciamo che possiamo anche mangiare la carne senza esagerare. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Leggevo ancora i vostri messaggi. Gianfranco da Sassari scrive: noi in Sardegna il formaggio con i vermi vivi a Asumode lo mangiamo da sempre, è una prelibatezza che non è facile da trovare. A proposito del via libera dell'Europarlamento a vermi, insetti, alghe e altre cose particolari come i nanomateriali sulle tavole degli europei, anche se adesso c'è l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea che dovrà dare il via libera o meno. Parleremo dell'allarme sui vari cibi, ne abbiamo parlato della carne in questi giorni, poi parleremo del caffè che nel mirino ancora dell'OMS, però tra poco invece ci concentreremo sul caso Marino. Vi ricordo però, come sempre dopo questa pausa, le notizie più importanti della giornata. Economia, la fiducia torna a livelli pre-crisi per consumatori e imprese, Renzi dice l'Italia ci crede, e poi Cantone che è il capo dell'anticorruzione che ha detto oggi Milano capitale morale, Roma senza anticorpi. Intanto Marino non scioglie il nodo di missioni e vertice che forse dovrebbe essere ancora in corso con Matteo Orfini, ne parleremo tra pochissimo. Omicidio stradale, fino a 18 anni per l'omicidio stradale, sì della Camera, il testo passa con 276 sì, 101 astenuti, e poi deve tornare però al Senato. E, strage del Bardo, negata l'estradizione di Tuil, il tunisino che era sospettato di aver fatto parte di questo attentato, però sarà espulso. Dieselgate pesa sui conti Volkswagen, primo rosso in 15 anni per il gruppo Volkswagen. Stretta di Erdogan, il presidente turco, la polizia occupa due TV d'opposizione, e poi dopo la carne anche il caffè finisce nel mirino dell'OMS. Buongiorno e buon lavoro, anche voi siete al lavoro, io sono al lavoro, siamo tutti al lavoro. Oggi abbiamo una giunta molto importante. Si vuole impiegare? Questo era l'Ignazio Marino, sindaco dimissionario, che di fretta oggi andava verso il Campidoglio perché aveva annunciato una giunta comunale, come ha detto, anche se non si è sentito bene molto l'audio, molto importante e densa di decisioni, aveva annunciato questa mattina. Ma poi questa giunta in realtà è durata meno di 2 ore senza alcuna comunicazione agli assessori sulla possibilità di rinvio, di ritiro, scusate, delle dimissioni. Il suo staff infatti poi ha comunicato: il sindaco sta ancora riflettendo, sono lunghe riflessioni queste di Marino, e qualunque notizia sulla questione rappresenta una fuga in avanti. Di sicuro Marino però non fugge da Roma e dal suo ruolo, anzi ci sta ben attaccato, nel senso che resiste ad oltranza. E intanto diciamo pure che il PD si trova in questo gran pasticcio. Marino evidentemente vuole sondare assessori, consiglieri, per capire su quali numeri può ancora contare, e come già dicevamo in questi giorni vorrebbe un intervento di Renzi, vorrebbe che Renzi dicesse qualcosa e soprattutto che lo incontrasse, vorrebbe anche l'onore delle armi, cioè un'uscita onorevole. Ne parliamo con Fabrizio Panecaldo, capogruppo PD nel Consiglio Comunale di Roma, che ringrazio per la disponibilità. Buonasera Panecaldo. Grazie a voi e grazie a chi ci ascolta. Quindi continua questo tira e molla. Ci sono le partite, insomma. Quindi l'ho rubata allo schermo. Cosa stava seguendo? No, assolutamente no. Segui il rugby. Il rugby. I mondiali sono già finiti, mi sembra. No, ancora no. C'è una finale. Mancano le finali. Sì. Ah, poi ci riaggiorniamo. Bellissimo mondiale. Bene. Mi piace questa sua passione per il rugby. Senta, Panecaldo, invece non so se lei ha passione per Marino e per questa vicenda. Qual è la sua posizione? Guardi, che abbia passione per Marino lo dimostra il gruppo consigliare, diciamo. Io sono il capogruppo e soprattutto dopo Mafia Capitale penso sia stato un gruppo veramente leale che ha contribuito a quelle che sono molte battaglie che noi rivendichiamo. Detto questo, noi pensiamo che in questi 2 anni anche quelle battaglie importanti, quelle sfide importanti che potevano essere percepite come rivoluzionarie nella città, in realtà si sono trasformate in dei boomerang, anche in modo incomprensibile, che di fatto hanno, come dire, messo su un piano inclinato la fiducia. Oggi vediamo che questa fiducia non c'è più rispetto tra la città e l'amministrazione, e pensiamo che non ci siano nemmeno più i tempi per poterla recuperare. Guardi, se vuole le faccio qualche esempio, perché sì, certo. Altrimenti noi abbiamo chiuso la più grande discarica d'Europa, quella di Malagrotta. Se avessimo spiegato invece di dire abbiamo chiuso la più grande buca del mondo, d'Europa, dovevamo togliere 1000 persone dallo spazzamento, dalla strada, per fare la raccolta differenziata sul serio, perché noi non facevamo come le precedenti amministrazioni, che risolvevano il problema semplicemente assumendo magari 1000 nuovi addetti. Se avessimo detto alla città che dovevamo mettere le mani dentro l'AMA, dove il 19% d'assenteismo faceva sì che 1500 persone ogni giorno non andassero a lavorare, e oggi sono 1000, quindi vuol dire che abbiamo riportato a livelli fisiologici, probabilmente la città ci avrebbe capito. Cioè, la città, invece di andare a finire su tutte le pagine del mondo come una città anche più sporca di quello che è nella realtà, avrebbe compreso che, avendo iniziato a modificare il ciclo dei rifiuti, trasformando i rifiuti da costo in risorsa, avrebbe compreso che si stava facendo un lavoro dalla parte giusta, cioè chiudendo prima la discarica per non andare poi in un'emergenza sanitaria. E invece purtroppo il sindaco si è ostinato attraverso, come dire, parlando più alla pancia che alla testa delle persone. Quindi i cittadini oggi si mettono insieme in comitati per pulire, più presi dalla disperazione perché pensano l'amministrazione non sia in grado di svolgere quel servizio. Invece magari in quegli stessi cittadini avrebbero affiancato l'amministrazione, perché poi in tutte le città, grandi o piccole che siano, del nord o del sud, poi quando c'è, come dire, il richiamo anche all'essere un cittadino che al senso civico, insomma, al senso civico, poi esce fuori. Ma quindi Panecaldo è un problema più di comunicazione che non di altro, secondo lei? La comunicazione intanto è una parte fondamentale del narrare la rivoluzione che c'è. Perché se fosse solo un problema di comunicazione, evidentemente sarebbero giustificati, come dire, anche i ragazzi che studiano poco, potrebbero dire ai professori: guardi, ho studiato molto, però non riesco a comunicare bene quello che ho studiato. In realtà non è solo questo. In realtà è mettere insieme tutta una serie di vicende che vanno appunto dalla chiusura di Malagrotta, ma al funerale di Casa Monica, dove l'unico sicuramente che non era responsabile era il sindaco, ma anche lì non c'è stata la capacità di reagire. Insomma, se mettiamo insieme tutta una serie di fatti, purtroppo il rapporto fiduciario obiettivamente si è rotto. Vede, noi stando in Consiglio Comunale dalla mattina alla sera, io faccio anche il coordinatore della maggioranza, e le posso garantire che l'ultimo anno e mezzo l'ho passato dalla mattina presto fino alla sera tardi dentro il Campidoglio, e quindi eravamo, come dire, presi nel corpo a corpo nel tentare di risolvere i problemi della città, e forse non avevamo neanche il tempo per pensare, per fermarci su quelli che erano i risultati poi percepiti dalla città. E poi magari quando andavi al bar o andavi al ristorante ti ponevano sempre domande e ti mettevano in difficoltà, dice ma che fate, tu dovevi spiegare ogni volta. Allora questo vuol dire che a me dispiace, perché appunto noi abbiamo sostenuto questa amministrazione fino all'ultimo secondo, però diciamo con coraggio dobbiamo anche mettere il cuore oltre l'ostacolo e dire che è il rischio di perdere le prossime elezioni, però dobbiamo dire con grande onestà che forse veniamo percepiti, l'amministrazione viene percepita più come un problema oggi che come una soluzione. Quindi vi dimetterete, lei si dimetterà insieme agli altri consiglieri nel caso Marino non ritirasse. Ovviamente nel campo delle ipotesi, con i sessi sicuramente non si fa la storia. Io ho detto una cosa da capogruppo e penso di rappresentare tutto il gruppo. Io non voglio arrivare a sfiduciare Marino con una mozione di sfiducia che veda anche i voti di coloro che hanno obiettivamente massacrato la città nel quinquennio precedente, perché Parentopoli ce la siamo ritrovata, e 860 milioni di buco di bilancio il 2013 è una cosa, diciamo, che da mettere i brividi ancora oggi solo a pensarci. Quindi preferisco le missioni di massa, sì, preferisco uscire magari in modo sinceramente penso sia quella la via d'uscita. Poi in questi momenti c'è un incontro anche con il sindaco, il vice sindaco e il commissario, nonché il presidente del Partito Nazionale Orfini, mi raccontano di un clima molto cordiale e franco, e poi vedremo quali saranno. Quindi per il momento è cordiale e franco questo incontro con Orfini. Lui avrebbe voluto incontrare un altro Matteo, Ignazio Marino, Renzi, però Renzi mi sembra che non abbia nessuna intenzione. Ho sentito che addirittura vorrebbe fargli un blitz domani sera in aeroporto, domani notte quando torna da Cuba. Ma guardi, penso che sarebbe veramente spiacevole, insomma, penso che non so, questa è la... Io mi rendo conto che i giornalisti devono fare il loro lavoro e quindi mettere insieme tutte le ipotesi, evidentemente. Questa mi pare un po' fantascientifica e anche un po' imbarazzante. Detta così. Senta, per chiudere, Pane Caldo, cosa ne pensa della dichiarazione di Cantone, del commento che ha fatto oggi, una comparazione tra Milano e Roma? Roma non ha anticorpi mentre Milano è tornata a essere una capitale morale. Guardi, mettiamola così, quando ci trovammo con 860 milioni di buco, venne fatta una norma che fu chiamata Salva Roma. Ebbene, quella norma portò soldi a tante città in Italia. L'unica città a cui non furono portati soldi fu Roma, perché a Roma gli si disse: siccome voi avete la gestione commissariale, cioè noi abbiamo un bilancio separato dove, diciamo, da una parte ci sono tutti i debiti pregressi fino al 31 dicembre 2008, ci sono ancora quelli che riguardano le Olimpiadi di Roma 60, e siccome viene ripagato con un pezzo dell'addizionale IRPEF, ecco perché Roma per esempio non può fare investimenti, perché lo 004 va dentro questa cesta dei debiti, fu detto appunto a Roma: voi prendete i soldi dei romani. Però fu chiamato Salva Roma. Con questo cosa voglio dire? È che certo Mafia Capitale è grave, è un macigno enorme, però poi leggi che arrestano dirigenti dentro al comune di Milano, lo leggi in quinta pagina, o l'altra settimana succede la stessa cosa per la regione, sparisce. Certo, come dire, non vorrei che ci fosse un attacco perverso a Roma, che poi non fa bene al paese, perché Roma negli anni passati cresceva mediamente più delle altre città. E quando cresce la capitale cresce il resto del paese. Certamente Milano ha saputo, questo va detto, operare bene. L'occasione dell'Expo è stata un'occasione importante per il paese, molto importante per il paese, e diciamo il dinamismo che c'è in quella città fa bene al resto dell'Italia, ma non fa bene invece che questa città, diciamo, non senta, come dire, anche l'afflato del resto del paese. Cantone ha fatto una fotografia, ahimè oggi anche vera, però io sono molto fiducioso. Ecco, se vorrei in una ripresa, speriamo per Roma, guarda, per Roma. Io auspico questo, che comunque chiunque dovesse venire, io mi auguro che si possano ritornare, non personalmente perché non mi ricandiderò più, però mi auguro che non si perda quel patrimonio della battaglia che abbiamo fatto comunque col coltello tra i denti alla illegalità. Glielo auguro. Abbiamo preso il primo appalto fatto, che è stato bloccato da Cantone, ma ce ne eravamo accorti noi. L'assessore Isabella, insieme con l'avvocatura, si erano accorti di qualcosa che non andava, l'hanno segnalato e l'abbiamo bloccato. Vuol dire che gli anticorpi invece cominciano, come dire, a funzionare. Ma speriamo che funzionino sempre più, che si rafforzino. Grazie allora intanto Fabrizio Panicardo. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Adesso, prima di lasciarci, brevemente vi ricordo che tra poco parleremo di alimentazione con i vostri dubbi, le vostre riflessioni. C'è per esempio Paolo, no, parla di Roma, invece gli altri messaggi sulla carne, ancora sul caffè. Cosa dobbiamo mangiare? Insetti e vermi imposti a loro immagine e somiglianza, dice un ascoltatore. Poi ancora, produciamo grano biologico ma costa molto, purtroppo non ha mercato. Cesar si firma. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Noto, e dopo cerchiamo un po' di chiarirci le idee su cosa mangiare e cosa no. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, ecco che torna con voi, continuano i vostri messaggi intanto sulle vostre perplessità relative all'alimentazione, confusione o meno. Elena dice: nessuna confusione sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A questo proposito, mangio poca carne, non mi piace un granché, il pesce lo adoro, verdure tutte, pasta un po' di patate, fagioli, ceci eccetera. Poi invece Maurizio, una fragrante fetta di prosciutto crudo o salame ogni tanto non credo incida un granché, sicuramente nella nostra vita cittadina siamo esposti a mix tossici ben più pericolosi. Federica, sì, io non voglio più nessun dogma, al momento faccio la dieta Mozz, che non conosco, evito il maiale, glutine, latticini, pochissimi cereali senza glutine, pochi zuccheri. Tra poco ne parleremo con un grande esperto. Adesso intanto vi ricordo però brevemente, mentre voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 con i vostri messaggi, le notizie più importanti della giornata. Crisi è ripresa, sale la fiducia di imprese e consumatori, mai così alta da 13 anni. Renzi commenta: cambia il clima, l'Italia ci crede, per Mattarella la crisi è alle spalle. Omicidio stradale, sì, della Camera, il reato prevede fino a 18 anni in carcere, pugno duro per chi fugge, revoca della patente, ora il testo torna al Senato. La crisi in Campidoglio, ne abbiamo appena parlato con il capogruppo PD della Capitale, resta il rebus delle dimissioni di Marino, incontro del sindaco con Matteo Orfini. E poi alimentazione, dopo il clamore suscitato con l'allarme delle carni rosse, nel mirino dell'OMS ora c'è il caffè. E intanto ci sono le partite di Serie A, è la decima giornata, 8 partite in gara, ne parleremo poi tra poco. Quindi abbiamo parlato diffusamente in questi ultimi due giorni di questo allarme lanciato dall'OMS, in particolare dall'UIARC, l'International Agency for Research Cancer, cioè l'agenzia dell'OMS per la ricerca sul cancro, relativamente alle carni rosse, in particolare quelle lavorate, che sarebbero state poste dentro il gruppo 1 dei cancerogeni certi, che sono quindi sicuri, quindi wurstel, carne in scatola, salsicce, insaccati in genere. E poi anche la carne rossa sarebbe da ridurre il più possibile, secondo questi studi dell'OMS. Tra l'altro, fra i vari dati c'è questo: che basterebbero 50 grammi di carne lavorata al giorno, cioè meno di 2 fette di pancetta al giorno, per aumentare la probabilità di sviluppare il cancro del colon per ogni 50 grammi di carne lavorata del colon retto del 18%. Come se non bastasse, dopo questo clamore suscitato da questo allarme sulle carni rosse lavorate in particolare, sembra che lo IARC abbia posto nel suo mirino anche uno degli alimenti fra i più amati soprattutto dagli italiani, che è il caffè. Nell'agenda dell'agenzia, infatti, si legge sul sito, c'è una valutazione di questa e altre bevande molto calde, per cui sono già iniziate le procedure. Ne parliamo col professor Giorgio Calabrese, che saluto. Professore, buonasera. Come va? Allora? C'è un po' di confusione, però voglio dire che lei è nutrizionista, presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare, docente di alimentazione e nutrizione umana presso l'Università del Piemonte Orientale di Alessandria e presso l'Università di Torino e di Messina, è stato membro dello European Food Safety Authority, cioè dell'agenzia della sicurezza alimentare. Se non ci dice lei che cosa dobbiamo mangiare, professore, cosa dobbiamo fare? Dunque, dobbiamo digiunare? Intanto io sottolineerei che quello che ha fatto l'OMS è lanciare una pietra nello stagno, ha fatto una disamina su 800 lavori fatti da diversi scienziati, diversi colleghi, sì, e poi ne ha tratto le conseguenze dicendo: siccome abbiamo visto questo e questo, estrapolando tutto il discorso di tutti gli alimenti che esistono nel nostro organismo, ha definito che le carni conservate, differendosi moltissimo, soprattutto le carni conservate del nord Europa e dell'America, perché quando parla di bacon, quando parla di wurstel, quando parla, e noi dobbiamo chiedere agli italiani e chiedere: ma quanto bacon mangiate? Forse i wurstel sì, però professore, ma senta, ma cosa sono dentro? Cosa sono i nitriti, i nitrati, i conservanti che li rendono cancerogeni? Sono le sostanze che in Italia non si usano, in molte nazioni dove c'è una maggiore libertà possono essere usate, e il discorso della carne conservata è diventata una un'icona. Se mangi quello ti viene il cancro, con 5, cioè il discorso non è che ti viene il cancro, aumenti. Se tu lo mangi continuamente, ogni giorno, se lo porti a temperatura alta, se lo friggi, se lo porti in barbecue, aumenti del 18% la possibilità di che ti insorga un tumore. Mm. Invece è stato dato come: mangi quello e ti viene il tumore. Professore, ma quindi sai che cos'è che è esasperante per tutti, insomma, no? Mangiamo tutti, quindi tutti consumano, tutti gli utenti, lo siamo tutti gli esseri umani, è che non si arriva mai, da un punto di vista della comunità scientifica, a delle certezze inconfutabili, cioè ci sono delle cose, per esempio gli zuccheri, forse solo sugli zuccheri si è arrivati a una certa... Ma neanche, perché vedete il discorso di fondo? Il discorso è lo stile di vita, il discorso è quello che mangi ogni giorno. Perché la dieta mediterranea, che comprende la carne rossa, bianca, il pesce, i formaggi, le uova, il prosciutto, le verdure, i legumi, i cereali e quant'altro, ci fa vivere 10 anni in più degli anglosassoni? Perché c'è un modello di alimentazione onnivora, un modello di alimentazione che non usa di base il barbecue, la griglia o la frittura costantemente. Qualche volta. Mm. Sì, qualche volta, brava. Infatti il messaggio che abbiamo dato anche ieri sera Porta a Porta era: signori, parliamoci molto chiaramente. Il problema è che se io continuo ad errare, ma vorrei fare un discorso anche più interessante, se io mangiassi solo vegetali, e nei vegetali soprattutto tutto ciò che è naturale, abbiamo le micotossine, le aflatossine, che sono i pesticidi presenti. Fra l'altro, professore, la buccia della frutta, io mangio tantissima frutta ma anche tantissima carne, insomma, quindi diciamo sì. Ma attraverso forse ogni cosa possiamo assumere delle sostanze tossiche. È così, noi facciamo trasmissioni insieme da tanti anni lei sa che io non ho mai detto una bugia, e difendo anche contro coloro che poi mi offendono su Facebook perché io dico difendo la carne. Io ne mangio poca carne, mangio quello che dico agli altri: 2 volte alla settimana, 2 volte mangio il pesce, 2 volte mangio le uova, 2 volte i formaggi freschi che stagionati, 2 volte le uova. Cioè, questo concetto è di onnivoricità, di differenziazione, di variazione. Loro hanno fatto una botta, oggi hanno lanciato un'altra idea: il caffè. Ma sì, ma non è che hanno detto, loro cosa hanno detto? Stiamo studiando il caffè, da febbraio a settembre studieremo il caffè. Cosa è venuto fuori? Il caffè sotto il tiro dell'OMS perché fa venire il cancro. Lì dicono che ci sono delle molecole che potrebbero interferire con gli ormoni umani. Ma scusa, il concetto di fondo qual è? Se noi parliamo di molecole, allora parlatemi delle micotossine dei prodotti biologici. Quindi è questo che io non riesco a capire. Cioè, io capisco la buona fede quando tu vuoi mettere come OMS sul chi va là una nazione o una Europa o un mondo in base a quello. In effetti tu mangi continuamente, e siccome mangi solo carne, siccome mangi solo wurstel, siccome mangi solo bacon, lei immagina che qual è la differenza tra andare in hotel da Bruxelles in su a Londra, e al mattino alle 6 quando io vado a fare colazione in hotel con gli altri sento già il fritto che c'è al mattino. Noi ci alziamo e prendiamo il caffè latte, la fetta biscottata, la marmellata, lo yogurt, la frutta fresca. Queste cose noi non possiamo non dirle, e non possiamo lanciare un messaggio a tutto il mondo. Pensi in Etiopia, in Angola, che non hanno da mangiare, in questo momento quando sentono che anche loro devono stare attenti a mangiare il bacon al mattino, mettono a ridere, perché il concetto di fondo qual è? Tu puoi fare una valutazione come questa da un punto di vista dell'OMS, ma non devi lanciare le sicurezze, dici che una carne, che so, il bacon, la pancetta è uguale al metano, all'amianto. Professor Calabrese, mi dico un'ultima cosa: siccome tra poco poi ci sarà un'intervista per quanto riguarda questo via libera dell'Europarlamento agli insetti e alle alghe e ai nanomateriali nei nostri piatti, esatto. Adesso ci deve essere l'Agenzia Europea che dovrà valutare. Lei che ne pensa? Mangerebbe volentieri insetti? Io lo dico subito. Allora, la prima parte è un problema che io non mangerei mai per cultura. Io non mi sento di mangiare gli insetti, gli scarafaggi o gli scorpioni, va bene? Allora, questo però è un problema mio, che un altro potrebbe farlo in Cina, nel mondo orientale. Trovarli gustosi, certo. Io sono preoccupato per un'altra cosa. Stanno facendo passare i cibi che nascono da animali clonati, i cibi che sono pieni di nanotecnologie. Questo, fino in fondo, ancora non è stato chiarito ai consumatori. Nella nanotecnologia, se facciamo i ponti delle autostrade, benissimo, perché risparmiamo e possiamo mettere insieme tante cose che prima non riuscivamo a mettere in poco spazio. Oggi non abbiamo nel campo del cibo la sicurezza che le nanotecnologie non possano creare dei grandi problemi, perché in un miliardesimo di milligrammo noi possiamo mettere tutti quei nutrienti che non sono controllati e non sappiamo gli effetti sull'organismo. Perché ci mancherebbe che mettono al bando la carne rossa e poi dopo introducono questi cibi, cioè non si capisce più niente. È una deduzione da grande giornalista. Grazie. Perché questo che deve essere, che noi dobbiamo essere estremamente chiari. Io sono attento a che il cibo, soprattutto il cibo di origine animale, non sia abbondante nella alimentazione settimanale e che non sia portata ad alta temperatura, perché i grassi che sono propri dei cibi di origine animale, se sono portati ad alta temperatura, sono deleteri per l'organismo. Professor Calabrese, io la ringrazio, è stato chiarissimo come sempre. Grazie professore, ci risentiamo. E buon appetito. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio a lei. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, tra le varie notizie vedo questa che è arrivata adesso sull'esito dell'incontro tra Marino e Orfini. La posizione del PD è autorevolmente espressa da Orfini, a cui va il mio totale sostegno, dice Matteo Renzi, risponde ai giornalisti sul sindaco Marino escludendo un incontro a breve, questo per il momento. Poi purtroppo arriva la notizia di 4 bambini, a proposito di immigrazione, che sono morti in un naufragio nell'Egeo. E poi le altre notizie importanti le avete sentito dopo l'allarme dell'OMS sulle carni rosse, adesso arriva quello probabile sul caffè, ma bisogna vedere poi a febbraio. E poi la ripresa in Italia, c'è più fiducia, dicono i dati Istat, per consumatori ma anche per le imprese. Europa 24 notte. Abbiamo appena parlato di cibo, torniamo a parlarne. Vi dicevo, insetti e alghe potranno presto finire sulle tavole degli europei. La plenaria del Parlamento europeo infatti ha approvato in prima lettura l'accordo col Consiglio sul cosiddetto novel food. 359 sì, 200 no, 127 astenuti. Un primo passo verso nuove frontiere culinarie che in paesi come Belgio e Olanda sono già una realtà. Ma soprattutto comincia a cadere un tabù per questa nuova industria che in Europa punta piuttosto sul mercato dei mangimi per gli allevamenti di pesci, polli e maiali. Alghe, insetti, meduse, ma anche nuovi integratori, flavonoidi, nanomateriali, sono i cosiddetti novel foods, non solo nuovi cibi, ma anche nuove tecniche di produzione in campo alimentare che influiscono sulle proprietà nutrizionali dell'alimento e che alla data del 1997 non erano ancora diffusi in Europa. Un tema che ha suscitato un ampio dibattito nel Parlamento europeo, contrario al Movimento 5 Stelle, secondo il quale l'Europa avrebbe alla fine ceduto alle pressioni delle lobby. I novel foods sono poco sicuri, dice l'eurodeputata grillina Leonora Evi, che chiama in causa l'EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Il fatto di consentire l'utilizzo di nanomateriali, che sono degli elementi che hanno una dimensione così piccola da poter oltrepassare la barriera cellulare e per i quali la scienza oggi non ci ha dato delle certezze su cui basare le valutazioni. E questo non lo diciamo noi, ma lo dice l'EFSA. L'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che è l'agenzia preposta a fare questo tipo di valutazioni. Noi staremmo addirittura per un divieto assoluto, proprio basandoci sul fatto che la scienza stessa non ci dà gli strumenti per quantificarne la loro pericolosità. Quindi questa è la principale obiezione. Poi, per quanto riguarda invece l'importazione di alghe, insetti, insomma cibi poco conosciuti, poco presenti sulle nostre tavole. Questo abbiamo delle perplessità dovute semplicemente al fatto che il testo non è chiaro nel momento in cui si dà l'autorizzazione all'immissione sul mercato di questi alimenti provenienti da paesi terzi, se hanno una storia di uso sicura nel proprio paese d'origine. Ma al di là di questo, siamo ben consapevoli che si possano eventualmente introdurre questi nuovi alimenti, ma appunto con tutte le tutele del caso, che a nostro avviso comunque sono sempre purtroppo molto deboli. Se Secondo i sostenitori, invece, i novel foods sono il futuro e l'innovazione e possono combattere problemi come la malnutrizione e promuovere la sostenibilità ambientale. Elisabetta Gardini, capo delegazione del Partito Popolare Europeo. Tanto diciamo che è una revisione di un regolamento che non viene toccato dal 1997 e che quindi ha bisogno di essere ridefinito, perché evidentemente ci sono state tante innovazioni e tante anche nuove tecnologie che devono essere appunto regolamentate. Non si capisce perché quando si parla di cibo ci debba sempre essere questo allarme esagerato, questa diffidenza esagerata, perché se l'avessimo applicata sempre, voglio dire, l'uomo non avrebbe fatto progressi, saremmo ancora alle caverne a mangiare le bistecche crude. Però si parla di questi nanomateriali, per esempio, che l'EFTA avrebbe pure detto non sono sicuri o comunque potrebbero, come dire, arrivare ad una percentuale un po' troppo alta. Ma guardi, che l'EFSA deve effettuare una valutazione ogni volta che un aggiornamento della lista può avere degli effetti sulla salute umana. Quindi io sarei abbastanza tranquillo, perché c'è un Parlamento che sorveglia, che su questi temi è assolutamente attento. L'Europa è forse il luogo del mondo dove le regole sono le più attente, e non c'è nulla che passi senza l'autorizzazione dell'EFSA. Quindi io non capisco perché i colleghi dei 5 Stelle continuino a imbracciare, diciamo, le cose che dice l'EFSA, quando l'EFSA è una parte del processo di autorizzazione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus.